come fronde rassomigliano alle onde. Ed ho piedi forti per salire, mani tenere per desiderare. Se solo potessi essere il vento, mi schianterei dentro al tuo rimorso, alleviandomi, allietandoti. Essere il vero.